Oggi è il 21 aprile, 77° anniversario della liberazione di Bologna dal nazifascismo, e proprio oggi, 21 aprile, esce in libreria Camminare l'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose, un libro edito da Gruppo Abele e scritto da Lorenzo Guadagnucci, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Lorenzo Guadagnucci, i nostri ascoltatori lo conoscono già perché insomma lo abbiamo sentito in passato, perché è autore anche di Noi della Diaz, ma conduce anche la trasmissione Restiamo Animali, che va in onda il mercoledì alle 13:30 sulle nostre frequenze. Camminare l'antifascismo, questo tuo nuovo libro, in realtà il camminare non è una metafora, ma racconta di una camminata vera. Sì, è un vero camminare, è una storia che prende spunto da cammini ai quali ho partecipato fra due luoghi simbolo, Montesole e Sant'Anna di Stazzema, un cammino organizzato da gruppi ampi dell'Emilia, della Toscana e dal CAI di Bologna negli ultimi anni, e che tocca questi due luoghi che hanno caratterizzato la storia del Novecento, la nostra resistenza, la Seconda Guerra Mondiale. Ed è un'occasione, questo cammino, il racconto di questo cammino, per una riflessione sull'attualità dell'antifascismo, quindi un misto di racconto, di storia, dei luoghi che si incontrano, delle vicende che vi sono avvenute, e appunto un pensiero, una considerazione sul senso oggi dell'essere antifascisti. Su questo poi ci arrivo subito, però insisto un attimo sul camminare, perché tu in un capitolo del libro lo definisci un atto politico. Sì, camminare può essere anche un atto politico. Sappiamo che le rivoluzioni avvengono per strada, e attraverso il cammino si sono fatti gesti politici importanti, alcuni sono scolpiti nella storia, la Marcia del Sale di Gandhi in India nel 1931, pensiamo alle marce del Movimento dei Diritti Civili negli Stati Uniti con Martin Luther King e altre ancora. Quindi io credo che camminare sia un'occasione di mettere, coinvolgere i corpi e dare forza ai propri pensieri, alle proprie prospettive. Per chi cammina, per il singolo, è un'occasione, a mio avviso, di conoscenza e di approfondimento unica, perché solo camminando, con il passo lento, con il tempo che ci si prende, si riesce a attraversare i luoghi, a entrarci dentro e a ragionare, a meditare sulle storie. E camminare insieme invece può essere un atto che cambia l'ordine delle cose, che fa intervenire un fatto nuovo. Camminare è un modo per dare visibilità alle questioni, alle prospettive politiche. Alle volte è trascurata questa dimensione del camminare, però lo sappiamo perché le lotte politiche, sindacali, si fanno attraverso le manifestazioni di piazza, i cortei, ecco, quindi è un'evoluzione, a mio avviso, possibile, potenziale di questa prospettiva. Nella riflessione che sviluppi nel tuo libro trova spazio molto la complessità, che è un po' in antitesi alla semplificazione che viviamo anche nei nostri tempi. E parlando di memoria, di quello che accadde a Montesole o a Sant'Anna, tu in diversi punti del libro spieghi che non è così semplice riflettere su quei temi. La complessità ritorna ad esempio anche quando si analizzano i comportamenti degli aguzzini, ma anche quando si parla delle vittime e dei nostri, diciamo, connazionali. Sì, io credo che non ci sia niente di ovvio nella storia della resistenza, nei fatti che sono avvenuti nella Seconda Guerra Mondiale. Il camminare e il toccare questi luoghi, secondo me, dà l'occasione di affrontare nella profondità e anche nelle varie sfaccettature i vari temi, no? Tu hai accennato alla riflessione che si fa appunto sugli aguzzini, sul perché si fanno le stragi, sui crimini di guerra. Si scopre, riflettendoci sopra, che i crimini di guerra sono la guerra, non c'è una guerra senza crimini di guerra, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, quindi ha senso interrogarsi sul tipo di partecipazione che i soldati hanno, il tipo di coinvolgimento che li porta a compiere da persone comuni, quali spesso sono, delle azioni efferate, criminali, che sembrano impossibili per una persona fra virgolette normale. D'altra parte anche la riflessione sulle vittime si presta a più considerazioni. I ragionamenti che cerco di portare è appunto un'attenzione a chi nelle guerre sta dalla parte di chi subisce. A Montesole, a Sant'Anna di Stazzema, a mio avviso è stata calpestata la dignità della persona. Erano non persone quelle persone che sono state uccise, è stato possibile trattarle in quel modo perché erano subumane in qualche modo. Allora la memoria, il pensiero a quei fatti, il senso che possiamo trarne, a mio avviso, ha a che fare con la dignità. Quindi il punto di partenza del dopoguerra, perché poi la resistenza è stata un fatto grande, importante anche politicamente, perché ha dato una prospettiva al dopo, ha fondato un dopo, la nostra Repubblica, la Costituzione, il ripudio del nazionalismo. Il poggiarla sulla dignità della persona è stato un gesto che ha cambiato l'ordine delle cose ed è forse il motivo per cui oggi l'antifascismo è così importante e così forte. La riflessione che abbiamo fatto anche durante il cammino e anche con una piccola manifestazione nell'ultima camminata pre-Covid sulla Sant'Anna fu quella di portare l'attenzione nel giorno della commemorazione della strage del 44 sulle stragi contemporanee, le stragi nel Mediterraneo. Si muore nel Mediterraneo perché la dignità della persona è calpestata. Questo avviene nelle guerre guerreggiate, ma anche in queste guerre silenziose, non dichiarate, che purtroppo in Europa combattiamo da anni. Quindi affrontare la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, i luoghi delle stragi, perché poi l'Appennino tosco-emiliano è costellato di luoghi che sono stati macchiati da un numero enorme di stragi, ecco, significa andare a scavare dentro la storia collettiva, ma anche dentro noi, la nostra persona, il nostro rapporto con quelle vicende e con le persone che le hanno vissute, sia dalla parte dei carnefici sia dalla parte delle vittime, perché come collettività nazionale siamo stati sia carnefici che vittime e non possiamo dimenticarlo. E proprio su questo volevo farti una domanda, perché tu hai citato le stragi di migranti appunto dei giorni nostri, ma un altro anello di congiunzione tra ieri e oggi riguarda i nostri genocidi. Io credo che questo sia un punto fondamentale, perché la memoria è vita, è dall'inizio infa al senso del vivere collettivo, e però la memoria che viene coltivata, diciamo, nello spazio pubblico è una memoria spesso vittimistica e nazionalistica. Si cerca in qualche modo di trovare quegli episodi, quei fatti nel proprio passato che danno, come dire, alimento a un senso di sé che si assolve, si autoassolve. E la complessità della quale parlavamo all'inizio invece ci porta a includere tutti i fatti che ci hanno riguardato. Il nostro esercito nella Seconda Guerra Mondiale, mettiamoci a questo, è stato anche carnefice. I nostri generali sono stati dei grandi criminali di guerra, dal generale Graziani a tanti altri, in Jugoslavia, Albania, Grecia. Noi non possiamo avvicinarci a quella fase della nostra storia che è fondativa per quello che è venuto il dopo con un atteggiamento così viziato da questa benevolenza verso se stessi, perché questo ci porta fuori strada. Lo vediamo purtroppo anche nel tipo di commemorazioni pubbliche che vengono decise, per esempio, nei nostri parlamenti. Recentemente è stata inserita una nuova festività, una nuova celebrazione che riguarda gli alpini e che assurdamente celebra una data relativa all'invasione dell'Italia insieme con la Germania della Russia nel 41-42. Questo è un segno di una memoria viziata all'origine da qualcosa di tendenzioso e che ci porta fuori strada, a mio avviso. Noi siamo appunto, il mondo è coinvolto in tante guerre, ma ovviamente quella che fa più clamore, forse perché è più vicina a noi, è quella in Ucraina. E quando hai iniziato a scrivere il libro, probabilmente, anzi sicuramente non era iniziata, però ci sono alcune riflessioni che sono valide anche per l'oggi. E in particolare c'è una frase che dice un tuo personaggio che riguarda, come dire, un pacifismo radicale, un rifiuto di considerare alcune guerre giuste o ingiuste e ricorrere alla violenza. Sì, io credo che sia questo il punto di arrivo di chi fa una riflessione su cos'è realmente la guerra. La guerra vista da vicino e quindi provando a immedesimarsi in chi l'ha subita in quel modo che sappiamo, appunto a Montesole, a Sant'Anna, nei tanti luoghi e di stragi che si attraversano facendo questo cammino, porta a questa conclusione. La guerra non ha niente di affascinante, per quanto sappiamo, purtroppo lo vediamo tutti i giorni intorno a noi, ci sia ancora la fascinazione della guerra, ma la guerra vista da vicino è un orrore, è uno sbaglio, e in questo io credo che dobbiamo ricevere l'insegnamento di Gino Strada, il quale diceva, e l'ho detto fino all'ultimo, che non dobbiamo neanche più dirci pacifisti, dobbiamo essere più precisi, perché la parola pacifismo è stata in qualche modo anche corrotta dall'uso, dobbiamo dirci contro la guerra. Questa è la prospettiva, questo deve essere il faro. Io credo che chi si immerge in queste storie, in queste vicende, e questa è la conclusione alla quale arriva. E questa è una prospettiva che è una guida anche rispetto alle decisioni, alle scelte politiche da prendere. È un'utopia, si dice, ma le utopie servono a guidare l'azione. E essere contro la guerra, rifiutarla, ripudiarla, come è scritto peraltro nella nostra Costituzione, non è un caso che sia scritta questa parola, come ben sappiamo, nella nostra Costituzione, è la prospettiva che dovrebbe guidare le scelte politiche, anche a mio avviso, nelle vicende attuali di guerra che purtroppo ci circondano. E allora, visto che parli di un nuovo antifascismo, visto che parli di un'altra memoria possibile, come deve essere questa nuova memoria, questa altra memoria? Ma io credo che l'antifascismo sia stata una delle stagioni più gloriose del popolo italiano. Non ci sono tantissimi altri esempi di una fetta così larga di popolazione, perché la resistenza è stata la resistenza armata, ma anche quella non armata, quindi ha riguardato un numero significativo di persone. Ed è stata una esperienza così grande, così positiva, perché in un tempo di guerra ha saputo immaginare un dopo, e l'ho saputo immaginare in una maniera radicalmente diversa da quello che era il presente. Quindi io credo che l'antifascismo nuovo è un antifascismo che rimette in discussione l'ordine delle cose, che va alla radice, che a partire dal principio di dignità dell'uomo, e quindi con la persona al centro di ogni prospettiva, mette in discussione proprio il mondo che ci circonda, le politiche, le scelte che vengono fatte. E noi sappiamo che se guardiamo il mondo in questa prospettiva c'è da cambiare praticamente tutto. L'antifascismo è una rivoluzione, è un passaggio verso una nuova dimensione, non è qualcosa di meno, non è una memoria da coltivare con dei riti, è una prospettiva di cambiamento radicale. Allora io, Lorenzo, ti ringrazio e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici il titolo del tuo libro, Camminare l'antifascismo, la memoria come ribellione all'ordine delle cose, edizioni Gruppo Bele. Grazie mille. Grazie mille a tutti.